vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzara, caro Parenzo, oggi ne sono successe in questo luogo, perché siamo ancora a Strasburgo, ne sono successe di tutti i colori, però abbiamo 2 ore e 30 per raccontare a tutto il popolo della Zanzara, a tutto il popolo della radio che è in collegamento con noi, quello che succede in questi corridoi. Un fatto incresciosissimo ieri, però ho visto una scena bellissima. Cioè, sono andato a letto molto presto, sì. mi sono sdraiato e ho messo Ballarò, mi voglio fare male da Strasburgo. Cioè, si vede anche la Rai, non è che siamo nel Congo. No, ma uno dice qua a Strasburgo. Uno è qua a Strasburgo. Non mi vedo. Ha i preservativi della borsa e guarda Ballarò. Però vabbè, poco male, insomma. Ma comunque, ho guardato Ballarò. Allora, guarda, a un certo punto vedo un servizio sulla registrazione delle coppie gay di Marino, sì, con un gruppo di persone che protestavano. Normale, c'erano le proteste, c'era una senatrice, anzi un ex europarlamentare, l'Angelilli del nuovo centrodestra. Vabbè. A un certo punto spunta un signore con il braccio tatuato, con Mussolini tatuato sul braccio. Un signore, sentiamolo, era spettacolare, una grande maschera. Sentite. Cioè, i più grandi portatori di malattie al mondo. I più grandi portatori di malattie sono i gay. Ma che sta dicendo? Gay, froci, transessuali. Ma vaffanculo, pagate le tasse quando fate qualche cosa. A Roma non ve volemo. A Roma non ve volemo. A Carogne. A Roma non ve volemo. Miei, io me lo voglio abbracciare fortissimo. Ma io ovviamente non condivido, ma però fermatelo, arrestatelo, ma lo voglio abbracciare fortissimo, perché una persona vera, sincera, dice delle cose terrificanti, portate le malattie e tutto, però lo voglio abbracciare, al coraggio di andare lì e dire ma non ve volevo, che dice mostri, poi che significa non ve volevo, cioè non ma chi? Ma l'hanno portato via poi, spero. Ma non lo so. Macchina bianca con sopra. Ma perché? Ma lasciate parlare. Lascia parlare le persone. Sei l'uomo del pensiero unico. Ma offeso. Sei il pensiero unico. Se uno si sente offeso, va in tribunale. Non si può dire nemmeno. Non si può dire quello che si pensa per strada. Parenzo, sei diventato veramente una cosa incredibile. Una volta non eri così. Cioè, una volta eri una persona diversa, una persona spiritosa, una persona che giocava. Eri un saltimbanco quasi. Io mi ricordo a te la Lombardia, eri un saltimbanco. Abbiamo una persona qui accanto che si ricorda. Quando facevi ma si cresce, comunque, ma insomma. Comunque, oggi gli animalisti ne hanno fatta un'altra delle loro. I signori animalisti hanno denunciato, diciamo così, anche Max Giusti, dopo la litizzetto perché ha portato quel porcellino, no? Sì. Quando voleva prendere per il culo Calderoli. Questa volta Max Giusti, in un programma, credo di Pacchi, questa roba qui, ha introdotto il gufo Mary. Il gufo Mary, ma si possono. Io dico una cosa: si possono portare gli animali. Gli animalisti non rompano i coglioni. Max Giusti lo vogliono denunciare per maltrattamenti. Il gufo Mary, sentite. Dopo il pacco dei 250.000 euro, io dico che entri la piccola grande Mary per te. Eccola qua, applauso di grande eleganza. Mary, con Giorgio, prego. Allora. Prego, ciao, Giorgio. Ciao. Salve. Mary e lui e Giorgio. No, Giorgio è simpaticissimo. Non è anche padrone, sono amici. E la bellissima Mary, gufo reale, giusto? Gufo reale. Bubo. Eh? Bubo. Bubo. Nome in latino. Speriamo ti porti fortuna nelle prossime chiamate. Ma adesso torno dalla dottoressa. Tu che hai tutto il tempo che vuoi, puoi fare amicizia con Mary. Parla con Mary, vedi se ti risponde. Io intanto parlo con la buffetta mia. Ovviamente era Flavio Insinna, non era Max Giusti, era Flavio Insinna. Protagonisti della giornata è questo signore, dicono sia un leghista, un candidato alla Lega in Emilia Romagna. Sentite cosa. No, dovrebbe essere qualcuno candidato alla Lega, non lo so, poi queste cose qua. Qualcuno. Magari non è iscritto, che ne so. Comunque, vabbè, questo signore che si chiama Umberto Bosco ha fatto questo spot elettorale sugli immigrati. Sentite, è bello, devo dire, contenuto, vabbè. Il muto ti strozza? Ospita Fatima sul divano. È incinta, presto il contributo raddoppierà. Hai paura di spendere tutti i 900 euro per l'immigrato? Non c'è problema, lo chiudi in cantina, pane e acqua e un secchio per i bisogni. Fino a ieri il business dell'invasione era riservato a scafisti e sfruttatori, ma grazie al governo Renzi, da novembre, anche tu potrai lucrare sulle sfighe del continente africano. La parte del pane e acqua c'è? Sì. L'immigrati lo chiudi in cantina a pane e acqua. No, ma mi ero distratto per un attimo. Allora, Lapo, Elkan e Renzi. A me fanno incazzare quelli che dicono che Renzi è l'ultima speranza. Cioè, come si fa a dire l'ultima speranza? È come se uno si dovesse affidare, non so, a un messia. Beh, questo è quello che credono. Ma perché? Molti. Ma non è vero. Vogliamo dire che non è vero. Anche per quelli che votano Renzi, non c'è nessuno che è l'ultima speranza. L'ultima speranza siamo sempre noi. È sempre la singola persona, quello che uno fa nella vita, come uno cerca di migliorare. Questa è l'ultima speranza che abbiamo. Non è Renzi l'ultima speranza. Cazzo di Lapo Elkan! La nostra unica speranza, mia e tua, è Renzi. Dai, su, ma come si fa? Renzi. Matteo Salvini è con noi, buonasera. Buonasera. Buonasera. Hai capito? La tua unica speranza, la tua ultima speranza si chiama Matteo Renzi. Se lo dice Lapo Elkan, ti fidi di Lapo Elkan. Voglia. Ma perché è un imprenditore, certo, dice la sua. Certo. O non è un imprenditore? Ma come no? Di successo. Di successo, lo invidio. Perché cosa invidi di Lapo Elkan? Niente. No, dai, c'è una niente. Cosa. Una cosa le invidi, soldi. I soldi, sicuramente. I soldi. Mi compra per 5 vite? No, no, no. No, le donne. Me no. Le scelgo io. Non ti fai. Lapo Elkan lascio i suoi gusti, le sue scelte. L'abbigliamento. Cosa c'è anche tu? No, l'abbigliamento lo potresti invidiare, lui è considerato uno molto elegante, molto fashion, elegante, di tendenza. Lascio il suo abbigliamento, mi tengo la mia felpa. Ah, ti direi, preferisci le tue felpe. Allo chatouche di... Ai tessuti di Lapo Elkan. Non è il mio modello di vita, diciamo che non ispiro mio figlio a crescere come Lapo Elkan. Allora, però, feltri... Vabbè, che c'ha? Tu dici per le cose che ha fatto, eccetera. Altro, mi piacerebbe che facesse altro. Dai. Comunque, Feltri dice che devi cambiare look. Vittorio Feltri dice che è perfetto da un punto di vista televisivo, acchiappa voti, è un però Matteo gli per diventare il vero leader del centrodestra, posto che lui giacca e cravatta. No, dice che devi migliorare da questo punto di vista, devi fare un passo avanti. Ma tu sai quanti minuti ci metto la mattina a scegliere cosa mettermi? Quanto? Fra i due e i tre. Sì. Non sto lì a scegliere il tono, infatti sbaglio ogni volta gli abbinamenti. Beh, abbastanza, sì. Però, direi di sì. Oggi no, casualmente? No. C'ho una camicia grigia, dei pantaloni marroni e delle Clark marroni che non capisco perché non piacciono a Feltri. Io metto le Clark da quando ho 5 anni. Però quanto costa tutta sta roba qua? Poco. Tu quanto spendi? Non lo so, quanto spendi per vestire? Poco. Lui ha scritto che vado al mercato. È vero che a volte compro le cose al mercato. Cioè, che le mutande al mercato. Non mi sembra disdicevole, sì. Cioè 10 euro. Io verifico che sia roba italiana, non made in China, quelle robe. Lì bisogna veramente. Cioè su tutti i vestiti vedi che non siano. Non voglio robe fatte in Cina, anche perché sono pericolose per alcuni tessuti, alcuni coloranti. Beh, il 70% delle cose che portiamo sono made in Cina. Io non vorrei cerco... metterti le mani sulla camicia. Ma quando vado, sono andato a cercare una maglietta per mio figlio in un grande magazzino, facevo il cognome Decathlon. Era tutta roba cinese, sono uscito. E prima o poi la trovi una roba fatta in Italia. Beh, se lo cominciano i che non si incazzeranno. E poi noi leader vabbè, della Lega, no, ma non altre Decathlon. Tante belle cose, Decathlon, ma sono quasi tutte cinesi. Tutte direi, non quasi tutte, tutte. Se non cinesi, altro. Senti, ma non ho capito, dunque quanto... Non lo so. Ma so te li compra la tua compagna i vestiti oppure no? Sì, ogni tanto, sì, ad esempio, le calze me le ha regalate un amico. Lo Stefano, amico. Quindi non so, sono regali di compleanno. Quindi lui cioè, ogni compleanno mi regala... Spendi 5 euro, 5 calzini, che ne so, 10 euro... Le mutande anche meno. Le mutande meno. Ah, cosa pazzesca. Tu... tu che sei di sinistra, questo è l'uomo. Fate. Lui è di sinistra. La camicia tu che me l'ha regalata, non so quanto l'han pagata. I pantaloni sono dei jeans. Ma perché ti regalo i vestiti? Scusa, Salvini. Ma tu cosa regali alla gente a Natale? Ma a Natale, al compleanno, certo. Sì, mi regalano il martedì dei vestiti. Il vero proletario è lui. Tu sei lo snob di sinistra. Lui è il proletario, diciamo, di... Lui è quello che invita all'accoglienza dall'attico in piazza San Bacco. Accoglieteli, no, accoglieteli. No. Però no, io vestiti comunque ci... Li scegli con cura. Tu le mutande, ogni mutanda spendi minimo 10 euro. Minimo. Solo. Ma dai, sei vergognoso. Solo. Questo è vero leader di sinistra. Boxer, ma tu puoi, boxer inglese. Che se ti dicono leader di sinistra ti offendi, no? No, no, ma figo, mi sta andando del nazista, del fascista da una settimana. Però invece quello di sinistra sono io, dici, il vero uomo di sinistra. Alcuni valori di sinistra, sì. Tipo? Sarà mica più di sinistra Renzi di me. Tu sei più di sinistra di Renzi. Più di sinistra di Renzi. Ma io vado, poi a volte riesco a fare qualcosa di buono, altre volte no. Nelle fabbriche ci vado a cercare di salvare dei posti di lavoro. Con la FIOM io ci parlo. Non è che bisogna andare. No, ma dico questo, Renzi schifa la CGIL. Tu? Io con la FIOM ci parlo, perché i sindacalisti della FIOM... Sabato prossimo. No, sabato prossimo. Però col cuore sei lì, perché sennò ti... Perché su alcune vertenze aziendali sono molto in gamba. Quindi non faccio lo spocchioso come Renzi, no, quello no, quello no, quello no, quello no. Se uno è bravo, è bravo. Allora, a destra o a sinistra. Qualcuno mi dice che la tua anima proletaria appare anche qui a Strasburgo, a Bruxelles, dove abiti. Cioè nel senso che non vivi da solo, cioè non c'hai un appartamento, no. Non vivi in albergo. O siamo no? In tre. No, ma dai, condividiamo. Cioè tu, il leader della Lega Nord, il potenziale segretario della Lega, quello che ha portato 100.000 persone, aperta parentesi, razzisti, in piazza. Vada via, cioè, vabbè, 100.000 persone in piazza, vive in un accampamento con... Ma no, perché un accampamento? Sono tre persone, un bagno, un solo bagno. Un bagno. E chi pulisce? Dai, bagno, su. Noi siamo tre uomini avete di 40 donna, anni, avete donna Filippo e Andrea. Ma la tavoletta del bagno, quando fate la pipì, la tirate su o no? Ma dove mi avete chiamato? Per la tavoletta del cesso. Questo è interessante. C'è qua il Parlamento che sta dichiarando guerra alla Russia, rompe le palle all'Ungheria, massacra l'agricoltura. Comunque viviamo in tre in un appartamento a Bruxelles. Spending review. Ma questo è interessante. No, in tre in appartamento. Hai soldi da buttare via. Una specie di comune. Una specie di comune, possiamo dire. No, un bel appartamento pulito. Però una piccola comune in tre, ma senza donna di servizio. Ma non penso, cioè c'ha due camere e un bagno e una sala, non è che sia una reggia. Ma in tre, un solo cesso, una roba incredibile, ecco là, dall'altra ci parte. Ci alterniamo, non andiamo tutti insieme. Vabbè, ho capito, però comunque siano dei periodi in cui siete in tre. A te piace però svegliarti la mattina e non essere da solo? Ho sempre dormito con altra gente. Quasi c'è sempre uomini. Questo uomo c'ha la copertina di Panorama, poi dice Feltri, la copertina di Panorama questa settimana. Qualcuno dice che potrebbe domani diventare... in edicola, andare vabbè, con Parenzo, vai comprarla. Facciamo ma cioè, è mica soldi miei. Quello c'è però. Allora, c'è... Può diventare sindaco di Milano. Vuole diventare sindaco. Beh, questo vuol dire che l'Italia sta vivendo un momento drammatico. Vabbè, se Matteo Salvini è un punto di riferimento. Beh, ci spera, è un momento no? drammatico. Lei sarebbe pronto a fare il sindaco di Milano, cioè, tutto quello che c'è bisogno di ma fare. Ma qualcuno va leader del centro, ma davvero tu pensi di poter diventare leader del centrodestra? Cioè, ci fossero le primarie, ti candideresti o no? Ad oggi no, perché non c'è il centrodestra. Vabbè, ma se ci fossero le primarie, se ci fosse un programma comune, sarei uno dei tanti. Perché però no? Ti candideresti? Perché sì. No? Perché no? Ce ne sono altri. Magari più... insieme a Tosi vi scontrate alle primarie. Flavio no, ma Flavio è probabilmente anche più bravo bisogna di me. Bisogna dargli atto, allora, purtroppo. Perché traffico. Chi è che ha portato 100.000 persone in piazza? Vabbè, questo purtroppo piazza gli ha dato atto. Dai, ti rode, contano i voti. Contano erano conta. Casalinghe, contano tranvieri, i voti. Liberi professionisti. Ha preso l'8% alle ultime elezioni. Siamo qui 800 24 00 24 con Matteo Salvini, accusato tra l'altro da un signore socialista belga, nostro conoscente, che si chiama Tarabella, signor Tarabella, di essere poco presente al Parlamento Europeo con il 15%. Ma va ciappairato, questo è un rompipalle rancoroso. Traduciamo. Per i non milanesi, vai a pescare, vai. Cioè vai a fare il culo in sostanza. Questo no. mi giudica dopo i primi due mesi perché per due giovedì sono stati assenti. No, sono palle. Poi c'è il sito del Parlamento Europeo che gli ascoltatori possono andare a verificare, mapranking.eu, che dà i dettagli di tutto quello che fanno i parlamentari. Qualche volta non sei venuto. Dunque, due giovedì, ho mancato due giovedì, non mi hanno pagato. Sì, abbiamo fatto tre riunioni. Per cui perché questo Tarabella che ce l'ha con te? La media fa un rancoroso. Ma perché questo aveva fatto una normativa sugli appalti pubblici che secondo me era una cazzata pazzesca, perché vabbè, complicava la vita alle aziende. Io gliel'ho detto e questo da allora si è inferocito. E quindi questo, se io mi metto il dito nel naso, Salvini si è messo il dito nel naso, ma pensa al tuo lavoro, ti pagano per lavorare, non vabbè, per rompere le palle a Salvini, dai. Allora mi dicono che dormi sul divano in sala in questa casa, qualcuno che ho le mie fonti. Sul divano letto, ma tu con chi stai messaggiando? No, dormi sul divano in casa, sul divano di che è un divano letto, hai mai hai capito? Non è possibile. Esiste, ma aiutatelo, mandategli un appartamento singolo dove ricevere le persone. Hai incontrato Putin? Ma è più bella la comunità. Scusa, Putin, gliel'hai spiegato a Putin che dormi sul divano letto? Ma sai che gli frega Putin? Abbiamo parlato di gas e di riscaldamento che mi è più a cuore per l'inverno che si avvicina. Non ci sta, che gli hai detto? Gli ho detto, guarda che l'Italia non è tutta come Renzi che vuole litigare con te. Ci sono anche imprenditori, persone per bene che con la Russia vogliono litigare, vogliono dialogare. Gli dai proprio del tu. Del lei, beh, incute una certa soggezione. Ecco, dimmi un po', che fa paura. No, paura no, però sai, uno lo vedi in televisione e poi invece... Cioè, averci un caffè assolutamente amabile, sorridente, era rilassato. Hai bevuto il caffè o no? Io non l'ho bevuto. Sì, l'ho bevuto con due zolle. Che scemo. Comunque spero di essere nel mio piccolissimo servito a aiutare qualche imprenditore italiano che altrimenti, se fosse per Renzi, gli hai detto l'Italia non è quella di Renzi. Io gli ho detto, la Lega governa Lombardia e Veneto. Lombardia e Veneto sono contro le sanzioni, quindi se tu vuoi riaprire i mercati agli imprenditori della Lombardia e del Veneto, io ti faccio i ponti d'oro. Te ne freghi dei diritti umani in Russia, ma che diritti umani? Putin, vabbè, io farei a cambio con Renzi domani mattina. È più democratico Putin di Renzi, fuori dubbio. Ma come più democratico Putin? Ma Putin l'hanno eletto, Renzi no. Putin l'hanno eletto, Renzi no. Beh, a parte Renzi che è andato Putin... anche due ore a Mediaset dal tuo amico Berlusconi l'altro giorno, dalla signora D'Urso. Cioè, gli stende ponti d'oro. Perché Silvio è un sincero democratico. Cosa? Ah, perché dice accoglie anche perché Silvio è sincero democratico. Vabbè, comunque l'altro giorno in televisione, dove tu sei sempre presente, quando mi chiamano vado. Vai, hai mandato a fanculo qualcuno o no? La Camusso? Mi è scappato. No, non la Camusso. Ti è scappato fuori onda? Non mi è scappato perché c'era uno. Ah, non era rivolto alla Camusso? Non era rivolto. A chi era rivolto? A uno del PD, responsabile economico del PD, Taddei. Che senza conoscere, sì, uno dei sette responsabili economici del PD che si occupa di economia senza particolare. Ex Civatiano. Tutto. Ah, era Civatiano? Sì, e adesso è Renziano? Sì. Vabbè, ma è normale. Ah, vabbè, adesso sono tutti. Voi due non siete Renziani? No, ancora no. Lui era Bersaniano, però rimane un po' Bersaniano. Vabbè, insomma, parlava dei problemi della gente. Io parlavo dei ticket sulla sanità in Lombardia. Lui dice, no, ma anche le regioni virtuose possono tagliare di più. Dico, ma scusa. E mando da fanculo. Mi è scappato un vaffanculo. Era rivolto a Taddei. Dunque, specifichiamo, come molti l'attribuiscono alla Camusso. Perché il ticket sui farmaci per qualcuno è pesante. Quindi se Renzi mi toglie 500 milioni come regione Lombardia, io non posso togliere i ticket. Lui dice che non è un problema, dico vaffanculo. Ma questo leghista che hai sentito prima che vuole fare lo spot, Umberto Bosco, ti è piaciuto quello spot elettorale? Può essere esagerato, però che ci siano molti immigrati trattati meglio di molti alluvionati emiliani, purtroppo è vero. Vabbè, non è che per questo uno deve mettere in cantina sabato in piazza con Casa Pound, cioè gli stai dando si è alleato con i fascisti. Attimo, quando vediamo anche il Ku Klux Klan magari vestiti di bianco con le torce? Pensa così, che devo fare? Chiedo quando è che aprite anche a loro, quando è che aprite anche a questi amici del eravamo in piazza con gente pericolosa. Ma sono democratici? Assolutamente sì, che non ha rotto una vetrina, non ha tirato un sasso a un poliziotto, non ha buttato una caccia. Ma quelli di Casa Pound occupano. Ma tu vivi a Milano o dove? Io sia a Milano. Quanti immigrati clandestini e quanti centri sociali occupano? Ma lei è d'accordo sul fatto che Casa Pound occupi le case per questioni sociali? Vabbè, io sono contro le occupazioni a prescindere. Ma è un movimento democratico. Detto te. Questo, sì, fra occupazione e occupazione, rispetto a quello dei centri sociali che poi fanno casino, preferisco quelli di Casa Pound sicuramente. Senti, tu che vai sempre in televisione, Matteo, ma chi facciamo due nomi però, da chi preferisci andare? Ah, posso dire una roba, ci vado gratis perché c'è gente che pensa che mi paghino per andare in televisione. Chissà quanti soldi fai. Politico, no, diciamo, meglio dirlo, meglio dirlo. In quanto politico la norma prevede che il politico non possa essere pagato. Ma chi da chi preferisci andare? Da dove ti sei addormentato? Dove ti sei annoiato profondamente? Come dove mi sono addormentato? Da qualche parte ti sei annoiato. Ogni tanto ma non si può dire, ma ti pare che lo possa dire? Dai, poi faccio giornalista anch'io. Più bravo chi è? Ce ne sono tanti di bravi. Beh, Vespa è Vespa. Vespa. Però devo dire che Gerardo Greco di Agorà conduce da assolutamente. Da Fazio non sei andato? Guarda. Sono stato solo una volta in collegamento perché non sono abbastanza renziano, probabilmente. Dici? Ecco, una che mi sta qui è la Litizzetto. Ah, la Litizzetto. Mi sta sulle palle. Sì, ma si atteggia grande interprete di fenomeni sociologici e sociali. Blin. Vabbè, qualcuno con tutta PD, la simpatia, Luciana. PD dice che sei un fascio razzista. Mamma, che sono dei poveretti. Dei poveretti. Sono dei poveretti. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere. Lui deve scappare perché c'ha mille cose. Vabbè, ciao. Ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano a insultare uno con l'altro. Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. Ah, probabilmente a nulla, probabilmente a nulla. Allora, mi chiami quel signore con il Mussolini tatuato. Mi chiami il signore con il Mussolini tatuato. Mi chiami perché ovviamente voglio battagliare con lui. Voglio ingaggiare una durissima battaglia. Però questo signore scende in piazza, si fa vedere con Mussolini tatuato sul braccio. Si è dato il braccio. Eccolo qui. Tra i più grandi portatori di malattie al mondo. I più grandi portatori di malattie sono i gay. Ma che stai dicendo? Gay, froci, transessuali. Ma vaffanculo, pagate le tasse quando fate qualche cosa. Oh, a Roma non ve volemo! A Roma non ve volemo! A Roma non ve volemo! A Carogne! A Carogne! A Carogne! A Roma non ve volemo! Non ho capito la storia della cosa. È strano che non l'abbiano menato, però. No, ma la cosa che non ho capito è le tasse. Perché c'entrano le tasse? No, perché si riferiva ai diritti. Pagate le tasse, non rompete le scatole. Beh, magari come se quelli volessero uno statuto. Questo fascista sostiene che i gay vogliono uno statuto speciale. Almeno questo si intende da quel delirio. Allora, io per capire quello che fa Renzi, al di là poi del dettaglio delle cose, spesso aveva ragione Giampaolo Panza l'altro giorno in un articolo, dice: per capire Renzi basta sentire Crozza. E allora sentiamolo, dai. Io questa cosa delle mie mamme la dico a Domenica Live. Sì. Che dici, Graziano? Ma non so. Si spacca, dico tant'ero le mamme. E che faccio? Un abuso compadio, eh? Perché? Ma fa cagare, fa il 3%. Ma no, ma non è vero. La dico prima di Nino D'Angelo. Così non solo mi votano le neomamme, ma così poi mi votano anche i neomelodici. E ora pubblicità, a tra poco, con altre meravigliose promesse. A cazzo! E una che deve partorire a dicembre, Crozza. Vabbè, però almeno ragazzi, 80 euro alle neomamme per i bambini nati dal 1 gennaio 2015 è buono, eh. Dai, tu pensa a una donna incinta adesso che deve partorire questo dicembre. Cazzo, per prendersi gli 80 euro secondo me resiste. Se lo tiene un mese in più dentro, stringe i denti fino a Capodanno. Ma allora, ti si sono rotte le acque? No, e te? L'ho rovesciato! Traccia di te! Che è quello che dicevo io l'altro giorno, poi, cioè che c'è comunque una discriminazione assurda, se vogliamo, no? Cioè già devi guadagnare poco. In più devi anche, no? Devi anche aspettare che tuo figlio nasca nel 2015 per pigliare questo bonus, bebè. Vabbè. Un altro Crozza è dalla D'Urso, non c'è stata un'intervista, ma un cazzeggio. Però lo capisco, lo credo che vada la D'Urso. Tu lo facevi incazzare, Giova. Cosa ridi? Guarda che quella faccia lì, lo fa incazzare. Dalla D'Urso Renzi era rilassato, lo capisci? Sembrava in un centro benessere dopo il massaggio plantare. Ha fatto la D'Urso a terapia, lo vuoi capire? Lo vuoi capire che non era un'intervista? Era un cazzeggio a bordo piscina. Andiamo con TG3, dai, andiamo con TG3. Animalisti, ancora un esposto, ancora un'accusa contro quel povero, no, Max Giusti, l'altro, come si chiama? Insigne, quello è il giocatore del Napoli, Flavio Insigne, il quale porta un gufo, avete rotto i coglioni, ma perché non vi occupate, no, anzi, occupatevi di questo, così parliamo di voi, dai, sennò ci manca un po' di materiale. Cioè, prima ve la prendete con la Letizietto perché porta il porcellino, poi con quello che porta il gufo. Gli animali servono anche a questo, per fare un po' di spettacolo, cioè, la dico tutta. Gli animali servono, certo, non è che uno li deve triturare, ecco, non è che uno li deve cuocere in diretta. Ma è giusto verificare le condizioni di salute. Ma quello è normale. Portano un gufo là, ma che deve succedere? Al povero gufo portato lì da non succede niente, non è che l'hanno tagliato con un'accetta il gufo. Ma in diretta. Scusa, è il famoso pappagallo di Tortora allora? Ma sì, che qualcuno me. Quello era perché gli animalisti non c'erano all'epoca. Però quello ed è stato il come si chiamava quello lì? Portobello! Sì, quello era famosissimo. Nessuno rompeva coglioni. No, ma era un simbolo anche di una televisione, di un grande conduttore. Scusa, nessuno lì giustamente disse nulla. Ovviamente, giustamente mi dicono che le interviste, ma l'abbiamo detto che era Piazza Pulita ieri sera, no? Che era Ballarò ieri sera. Sì, Ballarò, abbiamo detto, Ballarò. Mi sono messo davanti a Ballarò, cioè quel fascista di prima, Ballarò, servizio di Francesca Biagiotti. Detto ampiamente, ragazzi. chiaro, eh. Intanto qualcuno mi scrive: fate le citazioni di Ballarò. Vabbè, non ci penso. Ballarò. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Attacco al Parlamento di Ottawa, un uomo armato uccide un soldato, entra sparando, viene ucciso da un agente, ma altri uomini armati sono in azione, dice la polizia. Renzi, alla vigilia del Consiglio europeo, basta austerità, con la nuova commissione guidata da Juncker l'Europa volta pagina. Oggi parte la lettera all'Italia in cui Bruxelles chiede chiarimenti sulla manovra, sotto esame anche la Francia, domani il confronto governo-regioni. Pensioni, solo per chi ha un doppio trattamento il pagamento slitta al 10 del mese, riguarda 800.000 persone, per gli altri non cambia nulla. Legge elettorale Berlusconi boccia il premio alla lista, in agenda nessun incontro col premier, su Forza Italia non la sciolgo e resto in campo. Nessuna famiglia senza lavoro, l'appello del Papa ai vertici meridiana per fermare i 1.300 esuberi, ancora sulla torre, due dipendenti. E sequestrati beni per 900.000 euro all'ex capitano della nazionale Fabio Cannavaro. Il sospetto è di una mega frode fiscale. Con Stefano Genova. Buonasera Stefano, dica. Stefano? Stefano da Genova. Pronto? Stefano. Pronto, sì. Sì, dimmi, dai, forza. Benissimo, allora vorrei parlare del teatrino composto insomma da lei e dal signor Parenzo. Sì, eccomi. Che secondo me è abbastanza dannoso. Dunque, sì, per il signor Cruciani. Per chi dannoso? Ma un po' per il paese, un po' per il popolo. La vostra il paese, è molto il ascolto, popolo. Sì. No, paese, beh, posso popolo. Spiegare. Dunque, sì. Lei ha una deriva, diciamo, tenta a tesillare molto gli animi più grezzi, tendendo sì. proprio a renderli ancora più rozzi di quel che già sono. Ecco, a lei si contrappone Parenzo, che invece contrappone questo buonismo di sinistra, che sinceramente io sono di sinistra, disgusta a nausea un po' anche me. E quindi ma io non sono anche... né buono né di sinistra, così come scimmiotta lei. Io ho delle idee, è un mio ma parere. Non voglio essere... Sì, certo, sono parere. Culturalmente di sinistra, però... Tra l'altro io culturalmente, cioè di pensiero, sarei anche, diciamo, posizionato... Vabbè, ma non ho capito, Stefano, adesso quello che lei è posizionato, che pensa, eccetera, ci può interessare, naturalmente. No, no, però, insomma, però non lei... ho capito il senso di questa telefonata. Lei chiama per dire che io questo. Sono... L'ascoltatore medio, che magari è una persona che oscilla e che cerca di sì. fare analisi, di pensare così. Che lei conosce l'ascoltatore medio, lei è bra, no, è beh, talmente... questo è il mio pensiero. Questo medio è il tuo pensiero, conosce l'ascoltatore medio, allora? No, non lo conosco, dico quello che non è né ha un pregiudizio di sinistra, né ha un vabbè, allora andiamo, di... andiamo al coso, dai, benissimo, andiamo al, viene, al sodo. Viene, perfetto, viene stimolato da lei a, verso posizioni sempre più massimaliste, così, abbastanza sì, becere, spesso e volentieri. Sì. Ecco, e questa è una questione sua. Vabbè, e dall'altra parte chi si contrappone potrebbe fermare questa deriva, diciamo, di opinione che comunque sì. secondo me la vostra trasmissione mette in atto, è una persona che invece ha il risultato di squilibrare la cosa e allontanarla ancora di più verso le posizioni più becere, insomma. Vabbè. Che sono le sue. Bene, Vito da Bari, va bene, ho capito. Vito da Bari. Pronto? Dimmi, Vito. Oh, salve. Niente, Cruciani, io chiamavo in merito a una notizia letta perché mi ha fatto sinceramente ridere il servizio che hai mandato in onda dopo quel ragazzo che aveva Mussolini tatuato sul braccio. A un certo punto sì. tutta la gente intorno che gli urlava fascista, razzista, qualcosa di simile, sì. no? Beh, certo, e in questo caso venuta in mezzo una cosa... Ma lui stesso okay. si proclama no, no, razzista, no, no. penso, è fascista. No, ok, vabbè, ok, sentivo una cosa simile. Ma la cosa che mi faceva ridere era che tempo fa, ma qualche giorno fa, ho letto un articolo sul web dove, ti sì. cito solo il testo, poi nasce una bimba vai, nera, coppia sì. lesbica fa causa, volevamo un bambino bianco. Vabbè, ma sono due cretini, cioè sono due cretini, okay, questi qua. Non, no, è, che, bravissimo, non è che succede però... solo alle coppie lesbiche. Almeno, non no, è che devo difendere no. le coppie lesbiche in ogni in tutti ascolta, i casi. Ma che cos'era? Un'adozione? Che cos'era? Un'adozione? No, credo. Praticamente hanno fatto sicuramente un'inseminazione, perché hanno denunciato la banca del seme, addirittura nell'articolo. Ok. Hanno rifiutato questo bambino di colore. Non so manco se possono farlo. Se l'hanno fatto, sono degli imbecilli. Che siano lesbiche, che siano omosessuali, che siano eterosessuali, che siano animali, non mi interessa. Sempre due imbecilli restano, perché se uno rifiuta. Certo, poi se uno si era messo d'accordo con la banca del seme, con una. Giusto o sbagliato che sia fare queste cose. Se uno si era messo d'accordo perché e non voleva un bambino nero, avranno le loro ragioni. In generale, se a un certo punto ti arriva un bambino e è nero, dici no, noi lo volevamo bianco, sei un imbecille. Poi dipende dagli accordi che erano stati presi, no? Beh, d'accordo, non è che uno si può scegliere sì, il bambino penso di sì, con gli alcuni, occhi azzurri, in alcuni casi sì, si può fare. Sì, in America forse. Beh, questo in America è successo, no? Questa è una roba abbastanza grave. Vito. Ma non ti sembra un'assurdità? Per una assolutamente coppia, sì. Ma è un'assurdità esatto. La conclusione allora, della vicenda. Ma se esistono leggi che permettano a questi due di prendere scegliere un figlio bianco, e questi poi si incazzano. Scusa, è una follia che ci sia una legge che consente di scegliere bianco o nero. Ma infatti, questo era un punto di riflessione. Di riflessione, perché sì, però, ragazzi, guarda, io sono convinto che se noi chiamiamo il professor Antinori, ci dice che è giusto che uno si possa scegliere il figlio col colore degli occhi, cioè, se noi consentiamo la fecondazione allora assistita, uno se lo progetta in laboratorio, cioè infatti, i geni, dice voglio i geni di quello che è molto alto, no, ma quella e è un'altra poi cosa. Di quello che ha i capelli. Fermi biondi, tutti. Qui da noi Marione Borghezio, beh amici miei, Marione Borghezio cosa ha detto? Ha detto che le razze non si devono mischiare, che i bianchi devono andare con i bianchi, i neri devono andare con i neri. Non bisogna, diciamo, infrangere quello che ha fatto il Padre Eterno, ci ha fatti diversi. I bianchi devono andare con i bianchi e i neri devono andare con i neri. Ma mi sembra doveroso. Ma come doveroso? Cosa? Mi sembra doveroso. Aggiunto anche che il saluto romano non è un reato. Führer è simpatico, però sa come dittatore lo chiama. Potrebbe, sa, oggi che è diventato persino reato alzare il braccio, che alle volte uno non so, alza il braccio così perché senza. Non deve essere reato alzare. Io sono d'accordo con te su. Ma tutti i gesti non devono essere reato. Cioè, dico che se la Cassazione trova il tempo di andare a mettere nero su bianco che il saluto romano è un reato, sì. Beh, vuol dire che siamo nelle mani di nessuno. Il meticciato è una puttanata. Il meticciato, a differenza di quello che viene predicato anche molto in alto, è una grande puttanata. Ma come una puttanata? È una puttanata. Il meticciato è una puttanata. Quello che stai dicendo. No, non è razzista. È differenzialista. Le razze sono state fatte dal buon Dio perché chi è nero è nero. Qualche giorno prima Antonio Razzi, il mitologico senatore di Forza Italia, segretario della Commissione Esteri, ha sostenuto che i lager non sono lager ma serre di pomodori in Corea del Nord. Ma io penso che questi si sono imbrogliati, perché lì ci sono un sacco di serre di pomodori, di frutta, tutto coperto. Allora magari hanno visto queste qua e hanno pensato che era lagre. Quelle sono serre di pomodoro, serre di frutta che ci hanno tutte nelle grandi serre, capito? Serre di pomodoro l'ho viste grandissime, mai viste ne serre così grandi, guarda, una cosa impressionante. Saranno quelle, magari lo scambiano per lagre. Allora andiamo a Firenze, Marco. Niente, Stefano Pordenone, vai Stefano. Buonasera, come stai? Parento, volevo condividere con voi due temi questa sera. Il primo riguarda la campagna che i sindaci stanno facendo, che alcuni sindaci stanno facendo per la registrazione dei matrimoni gay. Io sinceramente sono d'accordo per una legge chiara e netta sulle coppie di fatto, trovo molto poco edificante che delle istituzioni come sono i sindaci si mettano a fare le battaglie contro degli altre istituzioni come sono i ministeri che hanno vietato sì. questo tipo di cose. Credo che i sindaci abbiano altri mezzi, hanno lanci, hanno altri tavoli sui quali cioè lei dice le che le operazioni che vengono... Lei sta dicendo che le operazioni che vengono fatte in Italia, tra l'altro anche dal sindaco di Pordenone, se non sbaglio, della sua città, sono delle operazioni di... Ex colleghi, non sono d'accordo con lui. Ex colleghi, che vuol dire? Lei è stato sindaco? No, abbiamo lavorato insieme in un'azienda. Ah, ok. Il sindaco di Pordenone, che è, com'è che si chiama il sindaco di Pordenone? Claudio Pedrotti. Claudio Pedrotti ha anche lui fatto l'operazione che ha fatto Marino, il sindaco di Grosseto. Ma la politica è fatta di gesti simbolici. Cioè, lui sta dicendo che i sindaci, rappresentando l'istituzione, ma in realtà ormai tutto è stato sdoganato in politica. È un'operazione politica quella che fa Marino, quella di invitare a Roma con i fotografi, con ovviamente con il ritorno sui giornali. Non capisco, però, perché veramente c'è indignazione per questa cosa civile che i sindaci fanno. Cioè che prendere, non fa male a nessuno. No, a prendere atto. E poi invece no, sulla vicenda di un sindaco come quello di Padova, Bitonci, che addirittura fa un'ordinanza non oltre che razzista, folle, su Ebola, di che stai parlando? E nessuno si indigna di questa. Ma perché roba uno si dovrebbe invece indignare di una cosa? Questo sono tutte e due senza, sono tutte due senza ma no, una cosa è completamente fuori dal mondo da un punto di vista proprio anche della logica. Ma anche l'altra è uguale, perché non ha nessun effetto persone, non ha nessun no? effetto. Cioè non ha nessun effetto uno e non ha nessun effetto l'altra, è uguale, è la stessa cosa. Va uno bene. È un atto. Simone Milano. Sì, buonasera Parenzo, buonasera dimmi. Cruciani, un onore parlare dopo aver sentito le parole di Borghetti. Io mi definisco da sempre un fascio leghista e quindi... Bene, insomma, e allora? Hanno un gran bel peso e niente, come al solito diciamo fa sempre terrore e paura sentire sempre la difesa per le coppie gay, per i musulmani, di chi? La difesa eccetera. Di chi? Da parte vostra, dei ma io sono a favore arabi, del matrimonio e dell'adozione, io non difendo nessun musulmano, esatto, nessun arabo, che c'è? Lei sta mettendo tutti insieme musulmani, arabi, matrimoni gay, sì, che cazzo c'entra? Certo, tra l'altro voi, i musulmani spesso nei paesi musulmani gay vengono lapidati e messi in prigione, di che stiamo parlando? Infatti, ma siccome voi in modo particolare Parenzo, no? si mette sempre a difesa diciamo delle minoranze, anche se poi minoranze non sono e anzi sono... No, io difendo i diritti delle persone che vivono qua. Che è diverso. Ma no, ma diritti, parenti, molti diritti, di questi diritti, peraltro sono essere... italiani perché hanno la cittadinanza italiana, quindi mi sembra veramente assurdo. Sì, difendo che cosa? Il diritto di questi, dei musulmani di avere i pasti nei luoghi pubblici, negro, le mense adatte a loro. Ma Cina non è cinese, parento, se uno è negro e nasce in Cina non è cinese. Io sono bianco, se nasco in Cina non sono cinese. Glielo vado a dire bianco, a quelle migliaia di bambini che sono nati in Italia e che si sentono e sono italiani, su. Non faccia un razzista per forza a tutti gli effetti. No, nessun razzista per forza. Bisogna essere chiari nel definire, nel separare le cose. Questo è... Va bene Simone, cioè secondo lei uno non ho capito, se è nero o negro come dice lei e nasce in Italia non può essere italiano in quanto negro, non ho capito bene. Certo, non è italiano. Secondo lei i negri non possono ottenere la cittadinanza italiana così per il colore della pelle? Sì, però no, lo possono ottenere, ma non sono italiani, cosa c'entra? Ma no, guardi che italiano è la definizione, non è che viene per forza da uno che è nato in Italia alla pelle bianca. Italiano è uno certo, che è cittadino italiano. Guardi che... un italiano è un italiano, quindi di ceppo di razza italica. La informo che anche oggi ho lavorato è una cosa con superata. Un ragazzo di Crema, di colore, figlio di un congolese, nato a Crema, abbiamo lavorato insieme tutta la giornata oggi, nato a Crema, di 27 anni, che parla, che è italiano al 101%, la madre italiana, il padre congolese, e secondo il suo ragionamento idiota, questo ragazzo di Crema non dovrebbe non essere è italiano, ma cioè, questa no, è proprio perché la non è italiana, è un cittadino italiano. Ci sta vabbè, anche ma chi se ne, ma chi se ne, ma poi chi se ne frega se uno se per lei non è italiano Ma è gravissimo, ma come si può sentire questo qui che sta ascoltando la radio peraltro, che è nato a Crema da madre italiana, il padre congolese ovviamente è scuro. Secondo me se ne fotte di quello che no dice. Perché anche oggi ne abbiamo parlato, dici io me ne frego perché comunque nella mia sono cresciuto fin da piccolo, i miei amici secondo questo visto, signore Simone l'ho visto scuro. Ma se uno gli dice che non è italiano solo perché ha la pelle nera è un cretino, ma proprio un cretino. Simone ma di che si può tollerare tutto allora? Cosa? Gli dica, gli dica a questo ragazzo di padre congolese che non è di crema, che non è italiano, glielo dica. Ma guarda che incredibile. Quelli che tollerate tutto siete voi che siete. Ma tollerate cosa che è italiano questo ragazzo? Ha il padre che è del Congo. Sì, ma parito, sono quelli come voi che tollerano tutto, tollerano i matrimoni gay, tollerano gli immigrati. Ma cosa cazzo c'entrano adesso i matrimoni gay con sta roba? I matrimoni gay non c'entrano, non mi faccia incazzare anche a me su queste cose qua. Ma cosa c'entra? Vabbè, ho capito, Simone, vai, Giuseppe da Parma, abbiamo sentito abbastanza. Giuseppe, Parma. Ciao, mi senti, Cruciani, mi senti? Dimmi, dimmi, Giuseppe, ti sento, sì, certo che ti sento. Ciao Parenzo. Allora, ciao, ascoltate bene, quella è la mia proposta. Quando si vedono le trasmissioni che fanno schifo in televisione, tipo quelle che sta facendo la D'Urso con Renzi, con la Binda. Ma non fa per niente schifo, la trasmissione della D'Urso fa grandi ascolti, poi può piacere o non può piacere. A lei non piace e dice che fa schifo. Allora, ma ce ne sono altre, io non parlo solo di quella, io parlo anche di altre trasmissioni, tipo Parlerò Altro. Allora, io propongo a tutti quelli che sono contrari a questo tipo di trasmissione di segnarsi su un appunto e di mettersi tutte le pubblicità che mandano in onda mentre ci sono queste trasmissioni. E boicottarle e non comprare niente. Vabbè, ecco la cazzata. Qualcuno propone pure di boicottare l'azienda che mettono gli annunci le inserzioni qui alla Zanzara, semplicemente perché ognuno di noi ha le sue posizioni, perché facciamo parlare la gente. Quattro imbecilli vorrebbero... Se ho bisogno di una bicicletta, compro una Bianchi perché è pubblicizzata sulla Zanzara. Vabbè, ma questo lei non è obbligato, se lo fa va bene lo stesso. Ma siccome le persone si lamentano di queste trasmissioni, allora si lamentassero seriamente. Dice, chi è che non ho capito veramente. No, lui sta dicendo chi si lamenta di queste trasmissioni dovrebbe boicottare i prodotti. Ma perché devi boicottare proprio niente? Cosa c'è da boicottare? Basta non guardare quella trasmissione. Salame d'un salame, no? Scusami, sto parlando del salame, ma ti voglio bene. Io non le guardo, però poi sento le chiacchiere, poi sento tutte le cose. No, ma scusami, c'è una logica che si chiama quella del telecomando, sia della radio che della televisione. Non ti piace una cosa e ne hai assolutamente il diritto, figuriamoci. Io è la più grande democrazia diretta quella. Cambi, non lo guardi, cos'è che devi boicottare? Ma bisogna boicottare queste trasmissioni con gli acquisti di quelli che li sponsorizzano, perché solo così questa gente finisce di fare sto schifo. Perché comunque chi è che le vede queste cose e poi si lamenta, ha fatto questo. Vabbè, questa qua è la cazzata delle 19:45. Head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Allora, leggo questa lettera incredibile da parte di una militante della CGIL che è andata ad una manifestazione. Vi chiedo se secondo voi è un compagno quello che ieri, cioè si parla del 16 ottobre, sventolando con orgoglio la bandiera della CGIL durante il corteo promosso dalla CGIL Emilia Romagna a Bologna, si è sentito legittimato a fermarmi, farmi togliere le cuffie dalle orecchie e chiedermi se la scelta del colore verde per i miei capelli stesse a indicare che la via era libera e potessero passare tutti. Cioè, questa signorina della CGIL ha mandato una lettera ai capi dell'Emilia Romagna per dire che durante una manifestazione c'era qualcuno che ha fatto il cretino con lei, cioè ha fatto delle battute un po' sessiste, no? Delle battute un po' sessiste. E manda una lettera dicendo: vi chiedo se secondo voi è un compagno. No, amica mia, non è questione di compagno. Se ti ha detto quelle cose, poi a un certo punto ha detto: è meglio che non si faccia i capelli rossi perché poi attirerebbe troppi tori ed è ancora troppo piccola per gestire certe cose. Vabbè, insomma, questa ragazza che ha mandato questa lettera. Beh, vabbè, se ha fatto questa denuncia. No, d'accordo, ma sì, fa un po' sorridere effettivamente. Dice: vi chiedo secondo voi se è un compagno quello che mi ha fatto queste battute. Ma questo qua è semplicemente un cretino. Se uno ti ha fatto una battuta dicendo hai le cose verdi, dunque significa che si può passare, hai i capelli rossi, allora. Delle battute talmente stupide, talmente sessiste, cretine, che non è questione di essere compagni, camerati, eccetera. No, mi stupisce il fatto che uno scriva una lettera. Vi chiedo chiedo, cari compagni, se si può definire compagno sì, uno che fa queste battute. Cioè, sai, in certi ambienti non dovrebbe accadere, no? Il rispetto per le ma donne. Ma non è vero, esiste perché. Ma certo che non è vero. Ma infatti, non è che, certo. Non è che quelli di sinistra rispetta. Ma non sto difendendo questa cosa qui, vabbè. Certo. Non ti pare. Abbiamo con noi l'eurodeputato del Partito Democratico, nonché ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Grande ritorno. Grande. Ben ritrovato qui. Allora, grande amico del Papa, essere Zanonato. Come del Papa? Ma veramente amico del Papa? No, amico, però. Simpatizzo per simpatizzo. Ah, simpatizzo, non è che ha una relazione col Papa, diciamo, la relazione di che no, relazione, no, relazione, diciamo, di che dici? Sì? Ah, perché vi relazionate. Si sono, quando era ministro si sono visti. Mi è capitato di incontrarlo ed ho trovato una persona straordinaria. Beh, certo, come molte persone, non avete un rapporto particolare, diciamo, no, epistolare, no. Che ne so. Scherza Parenzo, come epistolare. Ma che ne so, cioè, magari si scrivono. Ma che cosa è il Papa al cellulare? Le mail magari si possono. Ma il Papa, il Santo Padre alla mail, secondo me. Assolutamente, il cellulare, un numero di cellulare, secondo me ce l'ha. No, non gli serve. Secondo me ce l'ha il Papa. Lui viaggia oltre. Allora, volevo chiedere subito a Zanonato una cosa, ma lei andrà alla Leopolda di Renzi? non mi hanno invitato. No, se la invitassero ci andrebbe? Non lo so, a dire la verità, perché trovo curioso che ci sia una specie di associazione parallela presieduta dal segretario del Partito Democratico. Troverei più corretto che non ci fosse in questo momento la Leopolda e che il dibattito avvenisse all'interno del Partito Democratico. Cioè, essendo lui Presidente del Consiglio... fa un po' sorridere che segretario del partito, presidente del consiglio e Leopolda. Sì, in effetti. Però uno può dire c'è una specie di think tank, una specie di centro studi, una specie di associazione che Renzi aveva anche prima, che mantiene anche da presidente del consiglio, che ogni tanto si riunisce una volta all'anno per far intervenire delle persone, eccetera. Cioè, no, cioè lei dice addirittura, quando dice struttura parallela, può sembrare una roba tipo come se ci fossero dei servizi segreti paralleli. Insomma. No, parallela. Le parallele non sono mica una cosa offensiva, esistono. Esistono anche delle. Una volta si diceva i servizi quando paralleli. Quando si parla di geometria euclidea, per esempio. Uno dei postulati è il postulato delle parallele, che non si incontrano mai. Quindi parallelo non è una brutta parola, è una struttura parallela, nel senso che c'è la struttura del Partito Democratico e ce n'è un'altra che probabilmente decide la linea politica che poi il Partito Democratico deve accettare. Ah, per cui è anomalo che ci sia un'associazione che decida col segretario, che è anche capo del governo, che decide la linea politica, questa è la sostanza. Troverei opportuno che non tanto sciogliere, il capo del governo è a parte. Sì. Il segretario di un partito politico di solito non ha una propria associazione. Letta ce l'aveva. Intanto Letta, quando è diventato presidente del Consiglio, l'ha chiusa. Ha sciolto, sì, Vedrò si chiamava. Noi si chiamava Fondazione Vedrò. E proprio per non avere una duplice attività e in qualche modo lasciare intendere che la sua attività di governo era condizionata dalla sua vecchia corrente, ha deciso di sciogliere. Mi è sembrato un atteggiamento corretto. Dunque, Leopolda andrebbe sciolta. Andrebbero convocate cose che riguardano il Partito Democratico. Ma scusi, poi ha visto i fondi, no? Cioè c'è tutta una, cioè, anche se andiamo su internet, ci sono una serie di imprenditori che hanno deciso di dare dei soldi per organizzare la Leopolda. Davide, mi vuoi mettere in grane? Vedo che avete deciso di mettervi in grane. No, allora, c'è un conflitto di interesse. Il presidente del Consiglio può ricevere soldi per la sua fondazione, secondo lei improprio? Purtroppo sono uno che non ha particolari peli sulla lingua. Trovo poco serio che il Presidente del Consiglio chieda fondi per la sua associazione, perché il soggetto a cui viene chiesto il contributo fa fatica al Presidente del Consiglio a dire di no, secondo me. Beh, e quindi sarebbe molto più serio se questa attività di raccolta fondi non avvenisse. Sospendere la Leopolda fin quando il Presidente. Vabbè, ma non è mica una cosa, mica sciogliere e mandare la gente a casa, tanto nessuno viene pagato direttamente. Adesso dopo cambiamo argomento, perché mi sto, come dire, via via incartando su questa cosa. Ma ragioniamo un attimo su questo. Se il Presidente del Consiglio chiede fondi a una azienda, l'azienda, chi per lui, insomma, chi fa parte o la sua associazione, l'azienda fa un'enorme fatica, io credo, a dire di no, e probabilmente dice di sì. È in una situazione in cui uno in qualche modo ricorda la telefonata di Berlusconi in questura a Milano. Vero che non ha imposto, però è difficile anche dire di no al Presidente del Consiglio. Quindi a me non pare una cosa. Tanto è vero che ho preferito l'atteggiamento di Letta, che ha chiuso Vedrò e non ha chiesto più soldi a nessuno. Lo dico che secondo me come è successo con Vedrò, anche la Leopolda andrebbe chiusa fin quando Renzi è Presidente del Consiglio. Non andrebbe organizzato un evento che dà la linea politica a un partito che invece ha la sua organizzazione. È il conflitto di interessi di Renzi, la Leopolda. No, in piccolo, no, in basta, piccolo. Non dirò più nulla. Ma lei andrà alla manifestazione invece di sabato della Camusso a Roma? Devo trovare una. Vorrei andare, cioè condivido, cioè, condivido l'impostazione. Sì. Sì. In particolare sono molto deciso sul tema del diritto dei lavoratori a essere tutelati con il reintegro, in alcuni casi, quando vengono licenziati. Vabbè, è su contrario questo. Al Jobac, e sono, no, beh, tutto Jobac è molto vasto. Non, vabbè, stiamo su sul punto. Col cuore, sabato col cuore e con la CGL. Sì. Il problema è che si laurea una mia nipote e quindi devo andare. Vedo se riesco però a fare un salto. Mi piacerebbe cioè, molto. Tra Camusso e Renzi, le, ecco, in questo momento è con la Camusso. No, però l'ha scelto la nipote. Ma lo sai che sono. Sulla, no, ma in generale, chi le piace di più tra i due? So che poi qui siamo al gioco della torre al bianco e nero, però di chi si fida di più, della Camusso o di Renzi? Sul tema del reintegro sono d'accordo con la Camusso e penso che la soluzione dei tedeschi sia la soluzione più seria, cioè in determinate circostanze non si può licenziare. Ho capito. E no, il giudice deve decidere. 18 in pubblicità, deve torniamo decidere subito reintegro. Non mi vuole rispondere sulle singole persone perché Zanonato non è uno da bianco e nero, no, perché la politica è una cosa complessa e vabbè, ho capito, sì, però qui la zanzara. Siamo noi che siamo basic, diciamo. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Sei ancora qua, Semo? Sì, dell'Utri, siamo noi ancora sì qua. Lei, vabbè, adesso non infierire, in carcere, non infierire su cui faceva ridere, quando veniva certo qui, ti divertiva. Certo anche che mi divertiva, umanamente divertiva. Allora, anche non mi infierire, è prigione, sta ascoltando uno, la sua pena. Considero uno anche simpatico. Complicata, poi, difficile. Ha usato di reati gravissimi. Beh, si può discutere su concorso eterno mille volte, magari. Sì, però, sentenza definitiva. È in carcere. Ma prima di tornare su Zanonato, volevo farvi sentire una cosa fantastica, perché a un certo punto, ieri, sempre facendo zapping sul letto dell'albergo con Ballarò, mi sono imbattuto in una grandissima discussione tra Giuliano Ferrara e il Monsignor Mogavero sulle coppie gay. A un certo punto, a difendere questi due ragazzi che erano in studio, che si erano appena sposati, tra virgolette, da Marino, lei da sindaco Zanonato trascriverebbe i matrimoni gay? Ho fatto una cosa che allora sembrava d'avanguardia, ovvero sia ho consentito di registrare all'anagrafe le famiglie di fatto. Ma adesso è d'accordo? Cioè famiglie di fatto però non eterosessuali? No. Anche omosessuali? Di qualsiasi natura. Di qualsiasi natura. Allora dico adesso, oggi. Che è uguale a quello che fa Marino. Usando, è un po' diverso, lui ha, come dire, registrato un matrimonio avvenuto in un altro paese. All'estero, sì. Mentre io, prendendo atto che la legge oggi, la legge sulle anagrafi, considera le famiglie di fatto, cioè ci sono delle famiglie che non... Ah, cioè, ok, il suo provvedimento non sarebbe potuto essere impugnato dal Fano, sostanzialmente. Ma l'ho fatto anni fa. Poi è una cosa diversa, infatti, è una cosa molto diversa. Però riconosce le coppie. Fanno bene questi sindaci a registrare le coppie all'estero, oppure è semplicemente una baracconata, una buffonata, una roba di politica, insomma... Cioè, da una parte si dà un segnale... credo positivo nella direzione di spingere perché si sblocchi questa situazione. Dall'altra non so se tecnicamente reggono, bisogna vedere, perché un sindaco è anche un pubblico ufficiale. Il segnale che Alfano danno... fa bene a intervenire dicendo ai prefetti di bloccare o comunque dicendo che queste cose vanno. Ma mi pare che qui tutti stiano un pochettino, anche l'Alfano, giocando a raccogliere il consenso in un'area, no? Perché adesso l'iniziativa di Alfano non serve a nulla. Una è simbolica, l'altra è simbolica. Allora, bisogna scegliere il simbolo che piace di più. Io penso che sia giusto riconoscere a tutti la possibilità di vivere felicemente. Allora, Ferrara faceva quello più a favore delle... c'era più ultras del vescovo. Ma sì, a un certo punto dice a Mogavero, lo dica che è un attivista gay, basta ipocrisie, ci dica come si fanno i figli. Mogavero, poveraccio, monsignore, era lì che cercava di parlare di umanità, delle coppie, di amore. E Ferrara dice, no, lo deve dire che questo qua non è vero matrimonio. Sentiamo. Il Sinodo ha fatto un documento molto bello, è stato sulla linea di Giovanni Paolo II, sulla linea di Paolo VI dell'Umane Vitae e sulla linea di Benedetto XVI. E Mogavero si decida, ma su quella linea, siamo anche noi. O una teologia razionalmente comprensibile anche da quelli che stanno fuori dalla Chiesa, facciamo... oppure se lei vuole fare una organizzazione non governativa di tipo umanitario per promuovere la filosofia LGBT, allora, che sappiamo cosa vuol dire, vuol dire lesbian, bisexual, allora, non mi ricordo, grazie, la cultura gay, allora lo dica, sono un attivista gay, non un vescovo della Chiesa Cattolica. Abbiamo... Io tutto mi aspettavo stasera, fuorché dover assistere a uno scontro tra Giuliano abbiamo Ferrari capito, e Monsignor Mugavro. Sfumatemi, dai, sfumatemi questa roba. Allora, voglio sapere da Zanonato una cosa, ma abbiamo detto che questa Leopolda secondo lui non va bene, perché anche per questioni economiche, perché ci sono questi sponsor che ovviamente dire di no al Presidente del Consiglio è complicato. Ma cos'è la cosa che non le piace? Cioè, se le stesse cose che fa Renzi e che dice Renzi le avesse dette e fatte Berlusconi, diciamo la verità, cioè, l'avreste massacrato, diciamola tutta, no? O no? Ma devo dire che io dico quello che penso a prescindere, sì. Cerco di dirlo con il necessario garbo, però lo dico, insomma. Realisticamente, se sta facendo le stesse cose, tanto è Berlusconi che lo dice, tra l'altro, cioè se Berlusconi avesse fatto le cose che fa Renzi, cioè propone la modifica del Job Act, eccetera, che vuol dire sostanzialmente licenziamenti più facili, cioè, avreste portato in piazza, sareste andati in piazza, avreste denunciato all'ONU addirittura, no? Beh, sul tema articolo 18 c'è stato anche un referendum che non ha raggiunto, e dove ci siamo molto impegnati per difendere un principio fondamentale, cioè che il lavoro non è una merce, sì, qualsiasi, il lavoro è qualcosa che appartiene alla vita di una persona, e quindi interromperlo può significare distruggere una persona. Luca Renzi sta facendo una cosa di destra? Su questo punto, secondo me, sì. E se ci fosse... e quando dice che è una cosa nuova, beh, è una cosa che esisteva prima dello statuto dei diritti dei lavoratori. Ma mi incuriosisce che le cose vecchie, dopo un po' che sono state sospese, ritornino nuove, si sono in qualche modo rinnovate in questi 50 anni. Questo feeling che c'è tra Berlusconi e Renzi la inquieta, come uomo del Partito Democratico, di sinistra, eccetera? Sono d'accordo sul fatto che di collaborare, bisogna trovare un accordo per cambiare le regole, quindi però... questo non mi inquieta. Mi secca una cosa, cioè di non conoscere bene i contenuti del patto del Nazareno. Perché ci sono mi piacerebbe vedere una cosa precisa in cui si dice: guarda, i contenuti di questo accordo, cioè, c'è un foglio B, C, D, invece ci sono dei contenuti occulti? Non conosco i contenuti, e come faccio a sapere se una cosa è occulta, ieri, se non una cosa? Totti qui da noi ha detto che erano due una cosa scritta così, ecco, che poi è stata buttata. Io penso che un partito, di fronte all'accordo tra il suo segretario e il capo di un'altra formazione politica, ne deve discutere e deve conoscerne bene, ecco, il contenuto. Ma è vero, secondo lei, come mi dicono molti in Partito Democratico, che ci sono degli accordi occulti, dei non detti che riguardano la giustizia? È possibile? Ripeto, non lo so. So che non conosco i contenuti dell'accordo. Comunque io ripeto, secondo me se le stesse cose le faceva Berlusconi, lei era in piazza. Beh, infatti c'è la CGIL che va in piazza tutti i giorni. Sabato. Sì, era in piazza tutti i giorni. Andava in piazza. Sì. Andava in piazza, sì, tutti i giorni. Andava in piazza non un solo giorno, tutti i giorni. Vabbè, però è il realismo politico anche. Tu vuoi che parli ancora di Bitonci? È chiaro che lui è contro Bitonci. No, sono molto triste per questa circolare Ebola. No, questo non è un circolare. Cos'è che ha fatto su Ebola? Su Ebola bisogna finirla di dire che Bitonci è contro gli immigrati. In realtà li vuole curare, perché attenzione, la norma che ha adottato non li tiene distanti, va a verificare come stanno, e se sono ammalati li deve ricoverare. E quindi li porta tutti a Padova. Lui, bellissimo, li sta portando a Padova perché vuole verificare se sono o no ammalati. Ed eventualmente, perché trovato uno con l'Ebola, cosa si fa? Lo si espelle? No, è gravissimo. E lo porti in ospedale e lo cura. Quindi lui sta portandoci tutti gli ammalati di Ebola, se ce ne sono. Fortunatamente non ce ne sono, ma l'idea... Cioè non ha capito bene quello che non sta facendo. Non ha capito bene quello che sta facendo. Cioè, per dare un'idea negativa contro gli immigrati, sta di fatto... Cioè, lei sta dicendo sostanzialmente che è un cretino. Ma, intanto io non mi permetterei mai... Con l'interrogativo sì. Senza interrogativo non mi permetterei mai. È un cretino, punto interrogativo. Secondo lei c'è nel senso che non capisce quello che fa? No, cerca la strada per fare propaganda e non guarda al contenuto. Il messaggio è contro gli immigrati. E pur di essere contro gli immigrati, dice questa enorme cazzata, usiamo questa espressione... Che a noi piace molto. Ma guarda, anche Montezemolo l'ha usata. Enorme cazzata di stabilire che chi arriva... deve avere un certificato, me lo immagino uno che arriva da un villaggio africano che ha il certificato di un medico bantue, arriva, ha il certificato, altrimenti cosa succede? E lo devi curare. Ma è razzista questa cosa? Nelle intenzioni sì, nei fatti è semplicemente una cosa, è una cazzata. Lui, Bitonci, è uno razzista? Cerca di raccogliere, non lo so se è razzista nell'intimo, ma cerca di raccogliere il consenso di quella gente che attraverso la paura, l'ignoranza eccetera dell'immigrazione può dargli un consenso. Sai che è un furbo. Credo che è molto popolare però questa cosa, le persone che ci chiamano da Padova dicono che lui è un sindaco che però anche con queste cose che magari non hanno nessun effetto pratico vuole proteggere i suoi cittadini. Sì, ma in questo caso uno che è ammalato devi curare all'ospedale, cioè, cosa gli fa? Fa venire, gli sta chiamando, li sta facendo. Va bene, venire. Grazie a Flavio Zanonato, grazie di essere stato con noi. Grazie. Musica, musica. Ah no, Galan, mi dico una cosa di Galan, ma è giusto che secondo te abbia patteggiato oppure uno che si sente innocente deve andare fino in fondo? Ma io credo, il fatto è, anche qui è una cosa abbastanza ambigua quella del patteggiamento. Cioè lei è contento che è uscito dalla carcere innanzitutto, Galan? Ma io non ci tengo che le persone stiano in carcere, ci tengo un'altra cosa, che si conosca la verità dei fatti. Sì, questa sì. È la cosa fondamentale. Poi ognuno è in grado di giudicare, ma avere una base di conoscenza che consenta di capire quello che è successo. Non mi interessa relativamente che sulle persone si ferisca con una penna. Lui dice che non è una cosa di colpevolezza. Perché dice che l'ha fatto per la figlia, voi sapete che in base alle norme della nostra Costituzione è colpevole solo chi è passato in giudicato, cioè ha una sentenza definitiva. Il patteggiamento invece sospende il giudizio e quindi non è una sentenza di colpevolezza. Cioè uno si accorda con lo Stato. Tecnicamente è così. Però normalmente una persona innocente dice no, un attimo, voglio dimostrare che sono innocente. Voglio andare fino in fondo. Voglio andare fino in fondo. Io avrei immaginato... Se lei si fosse sentito innocente sarebbe andato fino in fondo. Senza ombra di dubbio, perché devo patteggiare? Allora, invece si costruisce sta cosa, che mi rendo conto è una specie di scusa, che sostiene no. Patteggiamento, ma lo uso perché non ce la facevo più, eccetera, eccetera. Però non l'ha detto lui, attenzione. No, l'ha detto anche lui. L'ha detto Ghedini, sì. Secondo me. Non l'ha detto anche l'avvocato, lui. Però riportando le parole, la figlia di 7 anni non riusciva a sopportare altri 6 mesi in carcere, la carcerazione preventiva, che secondo me è sbagliata, tra l'altro, perché comunque è innocente, fino a prova contraria. Adesso è innocente, adesso ci sarà il patteggiamento, ma è un uomo innocente. Dal punto di vista tecnico, la carcerazione preventiva serve a completare le indagini, non serve ad anticipare una pena, ed è indubbio che quando diventa troppo lunga bisogna sapere che si sospende. Sentire la supercazzola di Alfano sulle coppie gay oggi in Parlamento? Cioè, perché a un certo punto mi hanno scritto: guarda, devi mandare in onda quello che ha detto rispondeva in Parlamento alla storia della trascrizione, i sindaci, questa roba qua. Pare che abbia detto delle cose che ti sia incartato. Sentiamo. Del resto, relativamente all'analoga e fattispecie inerenti all'adozione di provvedimenti di annullamento disposte dai prefetti nei confronti di ordinanze sindacali di sicurezza urbana, è stata affermata anche da parte di autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza per esempio 3076 del 2008, la piena legittimità dell'intervento prefettizio proprio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del prefetto. È stupenda. Potere, ma queste cose qui sono delle cose che vanno in diretta, non è che sono delle cose tecniche. Dai, ancora Alfano, c'è un pezzetto. Naturalmente questo potere, in conformità a consolidati indirizzi generali, deve esercitarsi nel rispetto delle forme procedimentali, secondo le quali l'annullamento gerarchico va preceduto da un intervento monitorio che solleciti l'organo sindacale ad esercitare in autotutela un potere proprio di annullamento e si attivi dunque solo in seguito alla perdurante inerzia del sindaco. Allora io vi dico una cosa, questo è sicuramente una roba scritta che gli hanno scritto gli uffici, no? E questo è evidente, però è la dimostrazione del fatto che in Italia tutto è possibile, che uno emana un provvedimento e questo provvedimento è interpretabile in mille modi, gli uffici di là e le cose, quello è pertinente, quell'altro non è pertinente, è una cosa pazzesca. Dai, abbiamo con noi Lara Comi, buonasera, benvenuti a Strasburgo. Forza Italia. Beh, certo, di che partito vuoi sia? Dicevo, da Strasburgo urlavo Forza Italia. l'Italia, non invocando solo partito. No, era proprio per Italia Forza, esatto, era esatto. In quel senso. Qualcuno ci segnala, dato che le classi di Salvini non sono made in, sappiamo, in Italy, ma in... Non, ma in Italy nessuno l'ha mai detto. No, in sono in made, hanno il brand che è risieduto in Gran, sì, Bretagna, sono made in England, ma in realtà sono fatte da Taiwan, se no, non ricordo male. No, non si può. Lui dice, può. Io, perché lui dice, io vado, compro solo roba made in Italy, quando made in Italy, cosa che secondo me è impossibile fare. E allora, per esempio, no, adesso le Clark, addosso questo, le Clark. Le Clark si chiamano Clark dal signore che era un generale, il famoso generale Clark. Comunque, le Clark Desert sono fatte adesso. Sono, si chiamano. Sono, ma sono, scusa, fatte secondo te la camicia bellissima di Parenzo, ah, foto, tutta bella stropicciata? Bianca, come bianca. Renzi. Siete vestiti uguali, ma cos'è? Lo stile renziano? No, vi siete adeguati allo stile renziano? Ma la camicia bianca? Come la bianca? Io la porto questa camicia perché. Allora. Io me ne fotto di dove vengono le cose, compro le roba che è fatta a Taiwan, in Cina. Però tu vuoi sapere dove vengono realizzate? Beh, non te ne fotte neanche quello. Ma no, quello sì, certo, per la qualità ogni delle tanto, cose. Piace. A me sì. Infatti, però la tua può essere anche scritto made in Italy, ma in realtà il tessuto. Non le dico la marca, ma è come. Può essere fatto in Cina e tu non lo sai. Io sono curioso di una cosa, perché la signora Comi, dov'è? Made in China, Italy, dov'è? No, Italy, dov'è? È made in casa sua quella. Ah, ma è fatta bene. Ma lui è super snob, è fatta, certo, a mano a casa sua, certo, da artigiani, no, ebraici, ma che artigiani, romani, stupidaggi, cioè, artigiani ebraici, non esiste, artigiani ebraici non esistono. Beh, ma hai visto come fashion, e gli avevo già fatto i complimenti per questa camicia. La camicia sì, senza bottoni, stupenda. Ma ti ho visto 2 settimane fa, c'è sempre su quella da 2 settimane. Sì, però, questo è il fatto. Non lo so, 2 settimane che ha sulla stessa camicia. Questo è il problema vero. Esatto. Esatto. Però adesso, dopo il traffico, esatto, vi spiegherò una cosa, perché se la tutta nera da qualche mese ha una nuova, come dire, un nuovo, una luce negli occhi, sì, ha un nuovo, sei un fidanzata, nuovo look, non lo so, appunto, perché no, c'è Juncker, aspetta, cioè, no, eccetera, la Juncker, Juncker. Nominato, cioè, ha un nuovo, ha una nuova, no, non lo so, una, sai, le persone che sembrano innamorate, sembrano, sembrano, ma non lo sono, non lo so, quello non lo so, adesso non lo so, questi sono, allora, i tuoi che, dopo il traffico insegnamenti da cruciare, cioè, no, beh, bisogna confessare tutto adesso, perché noi abbiamo sempre confessato tutto, abbiamo pure cercato un fidanzato che tu non hai mai voluto incontrare, ma non era, ma perché telefonavano, cioè, erano spostati, erano improponibili quelli che si erano proposti, erano improponibili, ma li hai selezionati tu, li ho selezionati, purtroppo non ho trovato uno decente, e allora, e però mi dicono che hai fatto da sola. Mamma mia, privacy, che Beppe mi rovina ogni volta. Allora ragazzi, qui dobbiamo dare un annuncio, perché dopo tanto cercare, dopo tanti annunci qui alla Zanzara, beh, abemus papam, perché siamo venuti a Strasburgo per sapere del fidanzato della signora Comi. No, però abemus papam, grande annuncio al popolo della Zanzara. Dici che fa più notizia di Juncker? Assolutamente sì. Temo di sì, questo temo di sì. Abemus papam. Però Beppe, me li hai distrutti tutti, cioè io ti ho detto selezionami il fidanzato che avevi lanciato. Io ti ho davvero, diciamo, è un uomo? Beh sì, sì. No, cioè, le donne non ti piacciono, cioè, Forza Italia ormai è per concesso, è vero, sì, con Forza Italia, la domanda non è stupida, sono old style, ma la mia domanda non è stupida, cioè, Luxuria, cioè... non ti piace Luxuria, ma è simpatica, poi sai, a noi Vladimir è un nome che piace, perché è Putin, ah, per Putin, ah, dici, sì, pure abbiamo pure una simpatia, sei putiniana pure tu, sei diventata, abbiamo una, beh, io sono contro le sanzioni, quindi su questo sei putiniana, vabbè, allora è uomo, e questo già poi riprenderemo su Luxuria, 35 del range dell'età, diciamo 35-40, sì, 45. Dai, più o meno, ma devo dire tutto, no, ma sei fidanzato, devo, o no, so, devo dire, certo, frequento una persona, vabbè, sei fidanzata, si può dire, ma come si può dire, sei fidanzata, no, frequento, beh, fidanzata, frequento una persona, fidanzata, hai una storia, da quanto dire, tempo, mia cara, da quanto tempo, oh, mia cara, lo stai pure scrivendo, da quanto tempo, scusami, rimane, da quanto tempo, da 2 mesi, 3 mesi, da qualche mese, da qualche mese, è ricco, non lo so, non me ne frega niente. Ma dai, non lo sai, bravissimo. No, non lo so, che non mestiere me ne frega fa? Niente, è un imprenditore. Mese. Vabbè, sì, allora è ricco. Vabbè, ma in questo momento sono tutti in crisi, quindi non so se è ricco. È in crisi pure lui? Paga lui in genere? Quando, beh, sì, uscite? Beh, no, certo, dipende. Ma certo, dai. No, io, dai, sono per i pari di quindi vita, dividete, pari fate 50-50. Ti fai i regali? I fiori te li manda? No, i fiori non me li manda. L'anello te l'ha regalato, un anellino? Ma no, guarda i tuoi quanti ce n'hai, ma ti sembra? Ma devo regalarli a te gli anelli. No, quello che mi fai vedere il nuovo che anello. Che regalo ti ha fatto, diciamo? Quello che mi fai vedere il nuovo anello. C'è un nuovo anello io che mi hanno fatto. Il nuovo anello di Beppe. Che sveleremo nei prossimi giorni. Ma che fa? Questo è un imprenditore, ma che fa? Come si chiama? Nome? Come ma si no, ma figurati. Di battesimo. Ma figurati, neanche quello. Ma tanto prima o poi è stato presentato a corte o no? A Berlusconi. A corte che? Berlusconi, ma se l'ha visto o no? Sì, l'ha visto. L'ha visto! Ha dato il suo placet o no? L'ha visto. Mi fermo qua. No, ha dato il suo placet. Se l'ha visto, è già entrato in società. Ha detto che l'hai presentato come tuo fidanzato. Perché volevi farlo come testimone. No, adesso carità, Berlusconi già lo mettiamo già come testimone. No, perché tutto. Tu vuoi sposare? Tra un bel po', sì, se tutto va bene, dai. Beh, ma insomma, sono progetti di matrimonio. Ragazzi, ho 31 anni, quasi 32. Ho capito, ma non è che l'uomo giusto, hai trovato l'uomo giusto. Non lo so, vedremo se è l'uomo giusto. Però, secondo te, ha le caratteristiche. Potrebbe avere le caratteristiche. No, perché però, questo va sviluppato in questo modo, in modo serio, non è personale. Cioè, lei ha detto, io ho già 31 anni, quindi se questo è l'uomo giusto... No, non voglio entrare nel personale, però lei dice, io ho già 31 anni, se questo è l'uomo giusto, salgo sul tram... Vabbè, mi sposo e vado. Ma una volta già è scappata, quando era quasi sull'altare scappata. Ma in genere uno non è che inizia una relazione già pensando che magari siccome il tempo scorre e poi uno si... Guarda, vuol dire che lei ha già capito... La giusta, ma vuol dire che lei ha già capito che questa persona potrebbe essere molto, molto, molto, molto importante. Se non lo fosse, uno non ha 31 anni, non è che va con storie a destra e a sinistra. Ma come cioè, no? A differenza di Cruciani, lei non fa storielle in giro. Io sì, faccio storielle in giro. No, ma lei invece ti sta dicendo che per lei l'amore e il mettersi con una persona non è che lei va in giro, passa, diciamo così, di fiore in fiore. Di letto in letto. Come fa qualcuno? Prenda un secondo, diciamo, per cortesia, quella borsa di plastica. Quella borsa ci piace. Che cosa c'è? Prenda quella borsa di plastica. No, ho paura. No, non c'è nulla di. Prenda quella borsa di plastica. Siamo dentro uno studio. Allora, togliamo la cuffia. La signora Tommy. Non ritorno, sapete il perché. Si toglie la cuffia e si sottopone a questa cosa. Perché vuoi fare questa cosa? No, quella è roba mia. Quella busta di plastica. Quella bustina di plastica. Quella di plastica lì. Allora, questa è una busta di cruciale. No, venga qui seduto, non c'è nessun problema. Appoggi, faccia sentire che è tutto vero. Perché ho già visto. Il rumore. Ci sono medicine ci sono. Ho ragazzi. Già visto. Che allora c'è la cosa per le emorroidi, quello va bene. Ma non c'è dietro, no, le emorroidi. È una cremina per le emorroidi e questo va bene. Poi dopo cosa c'è, signora Comi? Detto questa beh, cosa? È una persona che fa sesso sicuro. Ecco, brava, giusto. C'è un pacco di preservativi. Da quanti? Da quanti? Da 12, un pacco da 12. Allora, la domanda da fare è: quanto durerà questo pacco da 12 da qui a domani? No, dai, allora, qui c'è un pacco di preservativi. Purtroppo oggi non ci sono le telecamere, eccetera. Comunque, un pacco di preservativi di una ditta. No, lasci stare, questa è la cremina per le emorroidi. No, ma non è la cremina. Allora, un pacco di 12 preservativi di un'azienda francese. Non sai perché l'ho comprato? Sono entrato dentro la farmacia per comprare delle cose per mal di gola, ho visto che c'erano i preservativi che costavano meno che in Italia, e essendo io molto attento a questa cosa qua. Bracino corto? Costano meno, non ma so la perché. Qualità è la stessa? No, lo so, la qualità. Ma è made so. In China? No, questo non lo so. E verificalo, perché questo è molto importante. Ma io importante. Me ne frego, però, ti ho detto, made in... Tu dici, si spaccano, una roba... la fine di tutto. No, ma credo che siamo in France. Scusa, Beppe, c'è scritto France. Scusa, Beppe, ma ti abbiamo mandato in farmacia... 5,80€, 12 preservativi, ottimo. Sì, però ti abbiamo mandato in farmacia, e quando me l'hai detto perché avevi mal di gola, non mi hai detto peraltro. Ho capito, però sono andato lì, ho visto. Ah, vedi, l'ha detto anche a lei allora. Sì, scusami Lara, sono andato lì, ho visto questi cosi qua. E per fortuna non l'ho accompagnato perché non potevo. Sono capitato, prendiamoli così anche per curiosità. Sì, anche le metti in testa. Però scusate, adesso io non vorrei entrare, adesso stiamo ridendo. Ha preso gli Easy, Easy, che vuol dire? Io non so, ma come vuol dire? Easy vuol dire leggero. Cioè, leggero. Vabbè, ragazzi, adesso non è che vogliamo andare sulla cosa. Ma lei col fidanzato li usa? Adesso perché. Ma non mi fai morire perché devi venire a lucrare con tutto quello che guadagni. Devi venire a lucrare qua in Francia. Ma non lucrare. Dove paghiamo? Brava, lo dica forte e chiaro. Lo dica. Dove l'hotel lo paghi tre volte in più. La notizia ferale è questa. Ferale per molti ammiratori. Ma che gli frega la gente? No, ma guarda che un sacco di gente conosco io. Io adoro Lara Comi, è una cosa pazzesca. L'impazzito. Forse si sposa. No, vabbè, adesso. Hai un progetto, hai un'idea di sposarsi con questo qua, con questo signore che è un imprenditore? No, state dicendo cose che io non lei ho detto. Lei ha conosciuto detto. Già la famiglia di lui? Non ho detto. È conosciuta la famiglia di lui? Sì, non ho detto, ma lo conosco da tanto tempo, quindi è una cosa che ma è un militante politico anche lui? Non è un politico. Vota Berlusconi? Sì, naturalmente. Ma come naturalmente? Perché potrebbe essere impossibile. possibile. Poteva essere anche uno del PD. Di io dopo questa cosa qua la voglio mandare via, perché questa cosa mi ha veramente distrutto. Vota Berlusconi. Sì. Questa notizia mi ha veramente. Penso di sì, penso proprio di sì. Vota Berlusconi. Sì. Allora, però, l'ultima domanda che voglio fare è questa: di sostanza. No, no, ma è una cosa importante. Juncker. No, no, Juncker non ce ne frega niente. Allora, e lei sulle coppie omosessuali di cui si parla è con Luxuria o con Alfano? No, adesso questo bisogna scegliere. Sì, sì, no, no, ma con no, via di mezzo. Allora, su Luxuria io rispetto la sua posizione, però io su quello sono con Alfano. Con Alfano? Cioè la posizione di Alfano rispetto a quella... Dunque, lei... Che è la posizione, scusami, che è la posizione, dire per Alfano, che è la posizione di Gasparri, che è la posizione anche di altri esponenti di Forza Italia. Ma non di Francesca Pascale, per esempio. Ho capito, siamo in un, in un bellissimo partito. Qualcuno dice che siamo nell'impero, dunque la moglie dell'imperatore. No. Allora, non siamo assolutamente in un impero, a tal punto che Francesca ha un suo pensiero che io rispetto assolutamente, ma che, non condividi. Ma che io penso in modo diverso, nel senso che, ad esempio, l'adozione alle coppie gay io non la permetterei. E ma il matrimonio? Sei contro il matrimonio? Ma... Sono contro il matrimonio, ma sono per dargli sicuramente le più diritti civili alle coppie omosessuali. Questo fuori discorso. E beh, per te chi è Luxuria? È un transessuale? Che cos'è? Lei è felice? Per me è una persona felice. Se è felice, è una persona felice. Questa è una bella, questa risposta. È una bella risposta. Grazie. Ciao. Comunque non mi devo sposare, grazie. Beh, no, ciao. Ma non ti devi sposare, però. Come si chiama questo fidanzato? Non lo dico, adoro la privacy. Ma comunque volevo dire: se avete bisogno, chiamate. Ma che chiamate che? No, ma chiamate Peppe, perché c'è lo sconto. No, ma cosa c'entra lo sconto? Ma uno, effettivamente, può comprare anche i preservativi. Tu hai una vita di scout proprio. Ma perché? Con tutto quello di che guadagni, ma dovresti comprare dei preservativi d'oro, dovresti comprarli. Ma perché sono venuti quelli con le figurine scritte a mano? Compri quelli cinesi che si rompono quando solo lo apri, dai, con la figurina Superman. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Eccoci, siamo tornati, 20:36, quante interruzioni pubblicitarie, quante rotture meno di coglioni, male, però, meno non male. Della pubblicità, quante interruzioni a questo programma, sì, la pubblicità naturalmente ci mancherebbe altro. Però altre cose meno, diciamo altre cose meno. Non entro nel merito. Qualche ascoltatore, dai, poi abbiamo un amico che ci ha raggiunto, amico mio, tuo no, cioè tuo grande nemico, tuo ma grande nemico. No, nemici. Ma come oggi non avete ancora litigato? Come mai non avete ancora litigato? No, oggi ho assistito una scena che ho ripreso televisivamente, che reputo appunto la conferma della presenza di un circo itinerante. Però ti sei divertita, ti sei messo a ridere, ti sei divertito moltissimo. Certo, ogni tanto ti piace. Ogni tanto ma ti certo piace. Che ridevo, non si poteva non ridere, ma c'era anche i volti dei deputati europei, degli altri, dei polacchi. Degli che guardavano, c'era un inglese che guardava, what is this? It's disgusting. Che ma quale disgusto? Signore che girava. Allora, prima Cristoforo da me, signor Cristoforo, vai, veloce, Cristoforo, dimmi. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Dimmi, dai. Volevo soltanto dire due cose rispetto alla confusione che c'è del matrimonio gay. In effetti, cioè? Non è stato mai celebrato nessun matrimonio, è stato soltanto trascritto sul registro dell'anagrafe un matrimonio avvenuto in un paese estero e la legge lo impone, e quindi essendo pubblico ufficiale colui che lo fa, in questo caso il sindaco, non ha violato nessuna legge. Quindi mi fa ridere Alfano che dice che vuole fare le revoche le fai con il prefetto, laddove chi ha commesso un diciamo illecito allora. Ma ragazzi, siamo in presenza di due atti politici, Alfano fa politica e i sindaci fanno politica con questa roba che è un po' una carnevalata, come fa Marino, di chiamare i fotografi e tutti, di celebrare questi matrimoni trascritti. In realtà questi matrimoni non esistono, cioè poi uno dice c'è la legge, sì, ci posso. Beh, no, non è una carnevalata, è un dare un riconoscimento a dei propri cittadini che già allora, qui abbiamo assieme. Gianluca Bonanno. Allora, Gianluca Bonanno è sindaco di Borgosese. Buonasera Bonanno. Buonasera. Allora no, questo registro... è sindaco di Borgosese. Sì. Sindaco di Borgosese, parlamentare europeo, sindaco di Borgosese, anche sindaco, sì. Pro sindaco. No, pro sindaco a Varallo e sindaco a Borgosese. La Valsesia. Quanti paesi sono? Borgosese, Valsesia, quanta roba è? Lui ha fatto il giro, è stato sindaco di tutti questi posti. Ma dov'era quel paese dove avevano stato uno dei primi sindaci missini, tra l'altro, nel 1993. Non avevo dubbi. Del movimento sociale italiano, uno dei primi sindaci del nord Italia, se non sbaglio. Ce n'erano due, uno ero io. Tu eri fascista quando eri giovane, no? Non sono mai stato fascista perché sono nato nel 66. Diciamo che io sono sempre stato di destra e sono anticomunista viscerale. Anticomunista viscerale? Guarda, mi fanno proprio schifo. I comunisti mi fanno schifo, cioè quasi come i gay, diciamo. No, schifo nel senso politico. Poi io comunisti mi fanno schifo, amicizie vabbè. Anche nella però quando uno dice sono comunista, mi chiedo ma dove vivi? Cioè vai a Cuba. Ti fa orrore, insomma. No, orrore, la storia li ha distrutti, ha fatto capire cos'era il comunismo, certo. Però se continuano a dirsi comunisti... C'è uno come Ferrero che continua a dire che è una delle due parti del Piemonte. Che dice pensa che ha fatto anche il ministro. Sì, e uno dice sono ancora comunista. Pace della mina sua. Cioè andasse a Cuba, dici tu. Dice... la storia le ha sconfitti . E quando hanno governato hanno fatto schifo, quindi no. Vabbè, non allora, mai governato come torniamo. Ferrero è stato ministro, allora, dai, ministro con Prodi è stato. Torniamo a questa roba qui. Ministro del lavoro. Ma questi registi perché non li fai pure tu? Basta con questa cosa contro i registi. Ti accusano. Ieri c'era un ragazzo qui, Viotti, europarlamentare, pure lui, che ha detto che non ti stringerebbe la mano, che è indegno che sta in Parlamento. Non gli stringere la mano per le cose che ha detto al collega. Ma io mica gliele voglio dare, non voglio mica dar la mano, cioè non è mica un problema. Vabbè, ho capito. Disinfetto. No, dai, come no, uno che dice così. Uno che dice così non gli stringono. Io non so neanche chi è, no, non gli ho mai parlato insieme. È aggressivo, usa termini fascisti. In questo caso però non ci ho mai parlato. Non so è legittimo dire non stringo la mano a Bonanno per quel che dice, perché dice delle cose talmente violente. Ma è questo. Guarda, io comunque registro per gli omosessuali, posso anche farlo. Oh, questa è una buona notizia. Registro per gli omosessuali. Però lo voglio fare non solo per quello, voglio farlo per tutti, siccome con la questione degli omosessuali si mette in mezzo tutto e contrario di tutto, allora facciamo anche il registro per i cani, per i gatti, facciamo il registro per tutti. Ma si rende conto della bestialità che ha detto? Ma perché? No, lui sta dicendo una cosa, cioè siccome... No, non c'è nessuna logica in quel che dice, c'è solo offesa, perché dire... Siccome lui dice, facciamo il siccome non vale, no? Non vale, e quello che diceva prima Cruciani è la verità, cioè Marino ha fatto una cosa che è una carnevalata, ma non solo lui. È un atto simbolico, non è che sia appunto, una... Lui dice una cosa, siccome non vale, io posso anche farlo, vengano i gay a registrarsi, non c'è problema, però io lo faccio però a questo punto può venire chiunque, cioè come fanno i due cani però a capire che sono... verranno i padroni a dire il Doberman sta con il barboncino, oppure i due Doberman stanno insieme e io li trascrivo. Cosa trascrive? Il cane col gatto, oppure due cani, due maschi che si trascrivono, cioè, però va bene si tutto. Se uno la offende, ma non sto offendendo, sto dicendo offendendo. Che va bene a tutti, va bene a tutti, ma no? Non sta offendendo, ma no, perché se tutto va bene, cioè lei sta dicendo che due uomini che decidono di sposarsi e fa l'esempio di due cani, no, ho detto in generale, se vengono ormai anche, non esiste facciamo, più c'è registro di tutto, niente, ma se facciamo registro di tutto, io sono. Rispetto agli omosessuali ti dico qua una cosa che lui dice, come, che ne sa che due cani non si vogliono, si vogliono bene, si vogliono bene anche i cani, ma cosa state dicendo, ma anche tu che no, ma io no, sto dicendo lo spirito, sto cercando di capire lo spirito perché non si vogliono bene, ma c'è un barboncino, ma è una stupidaggine, se un barboncino vuole stare con un cocker perché no. Perché sta paragonando gli animali, ma non è vero, a due persone rivendicano dei diritti, ma no. Però c'è un'altra cosa, oggi che è successo, aspetta, però voglio dire una cosa, io ad esempio vorrei Malgioglio, che ho sentito qua alla Zanzara, a Borgosese, perché secondo me è veramente una persona eccezionale, molto intelligente e la pensa come me su queste cose, perché anche lui pensa che l'adozione non ci deve essere, che il matrimonio non ci deve essere e che comunque giustamente anche gli omosessuali devono avere i loro diritti. Allora, io sono Cristiano Malgioglio, Cristiano Malgioglio è ufficialmente invitato a Borgosese, in Valsese, perché io vorrei veramente, anzi voglio dare una cosa in più, voglio dare la cittadinanza onoraria a Malgioglio per le sue capacità nell'ambito lavorativo, tanto musicale, e per far capire veramente che io non ce l'ho con gli omosessuali. Allora, anche a Putin gliela proposto, cittadinanza onoraria. Certo. Vabbè, quello si sa. Putin e Malgioglio. Putin è Malgioglio. Ma Putin è il suo statista ideale, abbiamo già detto, no? Ah, secondo me sì. Ancora oggi ho fatto un incontro in una commissione dove c'era l'ambasciatore russo, ho detto quello che pensavo. Cioè lei proprio è al soldo dei russi? No, che è al soldo? Magari. No. Io sono favorevole a che Putin possa fare quello che vuole, no, non è così. Favorevole al fatto che Putin possa fare la sua politica, che l'Europa faccia la sua, ma che non siamo schiavi di nessuno e quindi ci deve essere una una collaborazione, perché fa bene a tutti, perché adesso che arriva l'inverno, se non siamo, non andiamo d'accordo con la Russia, sono ci sono cavoli amari, perché poi i politici stanno col sedere al caldo, mentre la gente ma, diciamo per, così, ma per Putin faresti una follia omosessuale? Per Putin? Ma per, no, no, non farei ma, con nessuno. Ma con Putin? No, no, no, piuttosto mi butto giù dal ponte. Addirittura? No, ma, no. Piuttosto che essere gay, dici? Ma per amor del cielo, sì. No, non sono portato, cioè ci sono quelli che sono portati e quelli ma no. Non è questione di essere portati. Cioè, meglio morire che essere omosessuale, dici tu, cioè, per quello che ti riguarda. Cioè, io un rapporto con uno, piuttosto mi butto giù dal ponte. Vabbè, ma adesso non è così. C'è l'alternativa, non è così. Ma si vede che a te magari può andare bene, a me no. No, io ho detto, non posso escludere nella mia vita che magari può succedere. Ma no, ma per amore. Quando siamo avanti, l'uccello può piacere, eh. Cioè, non, quando si va avanti. Sono le tue esperienze. No, ma quando uno prova tutto, a un certo punto, poi a un certo punto dice, vabbè, proviamo pure quello. Beh, no. Io dico, uno può venire in mente, proviamo anche l'uccello. No, a me, ecco, io difendo i diritti, ma quello non mi viene in mente. Chiedo di essere ricoverato d'urgenza se dovessi dire una cosa del genere. Cioè, se dovessi dire, mi piace un uomo, pigliatemi e buttatemi dal ponte. Cioè, sì, con l'elastico. Come si dice, abbattetemi. Cioè, abbattetemi. Però c'è un'ultima cosa che voglio chiedere a Bonanno, che è questa. Ah no, ma il quadro, abbiamo parlato del quadro. Oggi, ha fatto sospendere, ha fatto togliere un quadro. Perché un episodio increscioso. Si è ottenuto un risultato. Cioè, sì, qual è? E non c'è più il quadro blasfemo, dove c'è raffigurato Cassinari, un quadro di Cassinari, bellissimo, valore 40, 50, 60 mila euro. Cassinari è un grande pittore. C'era l'immagine della Vergine molto nuda quotato. Accanto a un crocefisso. No, no, no, Vergine nuda. Questo lo dice, c'era una donna nuda. Beh, il quadro è così, però, Vergine nuda. È una donna nuda con il Gesù crocifisso obliquo, ed era assieme ad altri bellissimi quadri nei corridoi del cosiddetto transatlantico. Questo del Parlamento il mese prossimo verrà lei qui il Santo Padre viene qui il Santo Padre tra un mese e cosa vede? Una cosa del genere, ma assolutamente ma staccato, io l'ho portato via e poi mi è cominciato a seguire la sicurezza. Allora, quando ho capito che mi seguiva la sicurezza, ho cominciato a girare per tutto l'emiciclo. C'è una scena agghiacciante, cioè e poi dopo ormai andato, ti conoscono e poi qui. Sono andato in Parlamento e ho detto quello che è successo, perché magari qualcuno pensa che volessi rubarmi il quadro. Il risultato? Il risultato, ho detto, guardate che in Parlamento l'ho detto, c'è la registrazione e il video. Se voi rimettete il quadro dove io l'ho trovato, io ogni volta che esco da quest'aula e vedo il quadro, mi viene voglia di portarlo via. È meglio che lo togliete. E l'hanno tolto. Beh, l'hanno tolto. Ci siamo alla follia. No, perché a me non me ne frega. Io ho visto sto quadro, ma io manco ci ho fatto caso. Si poteva pure lasciare. Ma no, ma dai. Ma che blasfemo. Ma scusa, ma qui viene Concita Wüster canta. L'altro che fa tutti i versi. Ma lei ha bloccato per tre ore. Wüster, no, Wüster. Wüster, c'è il Wüster, Lei per tre ore ha bloccato il Parlamento europeo. Per tre ore ha bloccato il Parlamento europeo con questi uomini della sicurezza che cercavano il quadro. E che non mi hanno preso. Di la verità. Non mi hanno neanche preso. Vedremo le immagini domani a Matrix. Perché sicuro, adesso diventerò l'Arsène Lupin di Strasburgo. Ma sì, va dai. Allora, comunque, da ricordare che Bonanno ha messo, vuole dare una multa di 500 euro agli africani. Ma che hai fatto? No, ma non che. Allora, collevo. Intanto, Zanonato ha detto delle cazzate. Cioè? Una, quella del patteggiamento. Patteggiamento è una condanna, non è che sospendi, no, è una condanna. Tecnicamente è una condanna. Sì, ti dico che è una condanna. No? Vabbè, sospensione. Dopodiché. Tecnicamente non è considerata così. Sì, già no. Patteggio la condanna. Ma non capito, Ebola, che hai fatto su Ebola? Io dico che nella città, siccome abbiamo la Lorenzin, che è un ministro che dorme in piedi, che pensa più al lifting che fare il ministro, che al lifting. Dorme in piedi. Ma come si permette? Ma certo, ma fa tutta discussione sul lifting invece di parlare dell'Ebola. È vero. Dopodiché abbiamo un governo che dorme in piedi e abbiamo il ministro inglese della sanità che ha detto attenzione che qua sta per succedere il disastro. Io ho detto penso da un piccolo aiuto nella mia città, cerco di stabilire quelli che arrivano dall'Africa, quelli che devono andare in Africa, di avvisarci. Quanti siete? 30.000, 20.000? Ma cosa vuol dire? Ci sono più di 500 africani. Perché quindi, vuoi dare la multa? No, io dico, io voglio tutelare tutti i cittadini. Se tu vai in Africa e non mi avvisi che vai e quando torni non mi dici che sei andato, non mi porti un certificato medico, io se vengo a saperlo ti do la multa e non ti do più gli aiuti. Ma è incostituzionale. Ma non è vero, perché io... Ma non cerco di cittadino difendere di la... può andare dove gli pare, ma ti pare che si può andare sì dove gli pare, ma può andare dove gli pare. I malati di Ebola oggi sono soltanto bianchi. Ma che bianchi? Gli unici malati di Ebola che sono negli Stati Uniti sono delle infermiere che hanno lavorato lì, non solo infatti sono tutti preoccupati tranne te, lei... perché quelli che arrivano dall'Africa sono un problema. Scusi, Sierra Leone e Liberia per primi. Uno dei suoi cittadini, no, un buon anno qualunque di Stavarallo Sesia, anche Borgo Sesia e anche di Borgo, va bene, borgosese prende e va in un paese nel Costa Rica, no? Un bianco. Cosa bianco? Costa Rica? Cosa dici? Africano? Vai, lo controlli dopo. Diciamo che vai in Sierra Leone. Io... Vai in Sierra Leone. Bene. Allora, un signore buonanno. Avvisa, avvisa. Io devo andare a Sierra Leone, siccome te lo dico. Siccome è bianco, il tuo provvedimento del cazzo, perché il tuo provvedimento del cazzo, siccome è bianco, non rientra in questo provvedimento. Ma va che non ha capito. Ho detto a tutti, quello è a tutti. Dopodiché, gli africani che sono 500, è logico che gli africani probabilmente sono. Ma gli africani sono non ci pensano minimamente ad andare in Sierra Leone. Vabbè. Ma che lo dici? Ragazzi, fatemi sentire qualcosa. Ma io voglio difendere i miei cittadini. Mario, Verona, anche Mario. Anche quei 500 fammi sentire sono Mario. Tuoi cittadini. Certo, difendo anche loro. Mario, Verona, Mario. Dimmi, Mario. Buonasera. Dimmi, dai. C'è ancora il sindaco? Non sento niente. No. Sento poco, sento poco. Antonio da Roma. Sì, sì, ti sento, dimmi, dimmi. Sì, ti sento, dimmi. C'è ancora il sindaco Zanonapoli? No, non c'è più Zanonapoli. Ce n'è uno più fuori. Mi spiace perché siccome mi pare di aver sentito che è un fine giurista, gli volevo chiedere di commentare l'articolo 29 della Costituzione. Che su che cosa? Sul matrimonio gay. Cioè? Ma non c'entra niente la Costituzione, dai, no, ragazzi, Costituzione, io sono a favore del matrimonio gay e si può fare il matrimonio gay senza cambiare la Costituzione, dai, guarda, è contrario, lo sappiamo. Io leggo la Costituzione. Mi dica lei che la Costituzione, poi dobbiamo chiudere. Sai che c'è un detto anche? La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Vabbè, non c'è scritto tra uomo e donna. Non c'è scritto tra uomo e donna. Buon anno, qual è la no, battuta? No, c'è un detto che si sentirebbe da però le sono brutte, Dimmi. Che ca puntini puntini nel sedere non fa figli, quindi questa è la matematica, per dire che se cazzo, qual è il cazzo nel sedere non fa figli? Certo, si dice ca nel sedere non fa figli. Allora questa cosa qua cosa significa? Che due uomini o due donne non potranno mai portare avanti la specie umana. La natura morirebbe. Cioè con i matrimoni gay muore. Certo, che cosa ma vuoi muore fare? Che muore, non muore un cazzo. No, invece domani. Così, invece così. A domani la natura dice uomo e donna, punto. Aforismi di buon domani. Amore, ti chiedo scusa, amore mio, però non lo faccio più. Più. Dai, sculacciami pure, non lo faccio più. Sono brutto e cattivo. Ecco. Voi ci dovete far smellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, hai ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Che non ce la faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Radio 24, la passione si sente.